Nako kamwao mamanga nako kamwao nako yebate nini esalinga yo mama Namotindo ya makabonga nako mona nako bangisa e nako yebate soki mono Nako kamwao mamanga nako kamwao Gana koe bate, nini esalinga yo mama Namo tingo ya makamonga inakomona Leko pangisa e, nakoe bate soki mono Bako bambanga ipete monene na mapeka Oye toki nangaite Ako mbemi sanga ikuruze ho Na epite soki na kolonga he Na epite soki na kokoma he Na koka mwao mamanga na koka mwao Gana koe bate Nye salinga yo mama Namo tindo ya makambonga inakomona Eko pangisa e Nako ebate soki mono Bako babanga ipete monene na mapeka Oye toki nangaite Bako memisanga ikuruze wo Na ebite soki na kolonga e Naebite soki na kokoma e Nazima la dena koye bate oho Elako nini na salakiyo ya mabe Na kufanya nini mama Nazima la tena koye bate uho Eloko nini na salagiyo ya mape Abari kanina mie Nazima la tena koye bate uho Eloko nini na salagiyo ya mape Nazima la tena koye bate uho Eloko nini na salakiyo ya mape Kakupanya nini Gaina kokamwao ndenge okoteliga eloko nini yokoluka mabaye nyonso nakolekaleka mpo na yo oyebi te nini yokosala yokolongwa na pongi nde okondima nzoka yosalaki mabe baboye ata monika boye te bizanza libongaka na langye mama yego bolingo ekoti chambre noire bapangi yego ngai nayeba te ngai nakoka mwa ndenge okotelinga eloko nini yokoluka mama ye nyonso nakolekaleka mpo na yo oyebi te nini yokosala yokolongwa na pongi nde okondima nzoka yosalaki mabe chambre noire na kopele la mini mwaka mini moya bakoko nanga yokosala nyonso yokokoka te o mama Ata yo boneli, bako ina

nafanya nini? Oh mama, lazima laze mote mama. Oh bibi yangu. Oh mama, lazima laze mote mama. Thank you. Bye.